sento molto il peso della responsabilità. Esatto. Non abbiamo più alibi, ma soprattutto non abbiamo più tempo per il paese. Guardi, questa è una mia convinzione che va al di là della mia posizione politica. La condivido in pieno. A mio parere siamo su un crinale. La sfida alla globalizzazione è un modo di dire, ma è vero, è esatto, esiste. O rispondiamo rapidamente o il paese scende dal crinale del declino e ci aspetta un futuro di tipo sudamericano. Ovviamente non lo vogliamo. La Lega ha fatto una scelta molto netta, anche direi coraggiosa, come molte scelte sono state fatte in questa tornata elettorale. Ha scelto di essere un partito territoriale, non dimentichiamoci che noi ci siamo presentati soltanto al nord, proprio per segnalare questa questione. Noi volevamo essere i campioni della questione settentrionale, il popolo settentrionale ci ha creduto, ci ha dato un assegno che però non va assolutamente sprecato. Quindi grandissima responsabilità, senza alibi. Togliere il privilegio parlamentare non risolve nessun problema del paese, ma è un segnale di natura etica che va assolutamente dato. Bisogna porre un freno a tanti sprechi che ci sono, che nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare compiutamente. Insomma, sono assolutamente d'accordo con il direttore, nessun alibi, e a questo punto la partita si fa veramente dura.